America 24 di Mario Platero. This is a very complicated world. It's a very noisy world. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Los Angeles, Mario Platero. Da Los Angeles perché dopo Chicago e Washington arrivo sulla West Coast, perché l'America e America 24 in particolare non è solo New York, questo lo avevo detto all'inizio delle trasmissioni, e perché qui a LA c'è la All Things Digital Conference, dove ieri sera, e quella era la voce che avete ascoltato, hanno parlato due ospiti d'eccezione: Steve Jobs, proprio lui, il mito assoluto, inossidabile dopo 30 anni di onorata carriera, e Rupert Murdoch, gran patron di News Corp e del Wall Street Journal, che tra l'altro organizza l'evento, ma nei saloni del Terrania, un enorme resort, 600 camere, villette, campo da golf, tutto nuovissimo e devo dire miracolosamente sopravvissuto alla crisi finanziaria che ha colpito la California e Los Angeles in particolare. In questo resort, dunque, da dove vi parlo, ci sono anche Mark Zuckerberg, il giovanissimo fondatore di Facebook, e decine di altri protagonisti del settore digitale. Avremo tempo dunque nei prossimi giorni, starò qui appunto qualche giorno, per sentire cosa ci riserva il futuro dell'elettronica. Intanto vi anticipo che Jobs ha goduto davanti al pubblico di gloria per i 2 milioni di iPad venduti, ma anche di qualche fischio. Qui alla Digital Conference ci sono puristi che ritengono che Apple stia cercando di limitare gli accessi al mercato, ed è su questo che Jobs dovrà confrontarsi e spiegare anche nei prossimi giorni. You are growing up in a digital world where you send email on your cell phones, where you can listen to a history lecture on your iPod. Murdoch, ecco, lo avete sentito, la sua voce un po' strascicata, accento australiano, invece guarda al futuro rilassato, grande difensore, devo dire, questo mi rassicura alquanto, della carta stampata. Ha dato un contesto per spiegare come internet e appunto i vecchi media, i giornali, possono, anzi devono convivere. Murdoch punta agli abbonamenti per avere accesso a notizie serie e non alla fuffa che su internet si trova in abbondanza dappertutto, e dimostra che si possono fare sottoscrittori con facilità, portando ad esempio l'esperimento iPad con la Dow Jones, e ha detto che il suo Wall Street Journal ha aumentato in poche settimane di 50.000 persone il numero di abbonati online. Dunque un gran successo che secondo lui promette bene, ma oggi ci sono notizie e sviluppi pressanti da altre parti dell'America, innanzitutto sul fronte della marea nera sul Golfo del Messico. The oil that is still leaking from the well could seriously damage the economy and the environment of our Gulf States. Avete sentito il presidente Barack Obama all'attacco sulla marea nera. Dice il presidente: porteremo i responsabili in tribunale. Ed Eric Holder, il suo ministro per la giustizia, sempre ieri ha annunciato di aver aperto un'inchiesta penale e civile sulla British Petroleum. L'assedio della marea nera, dunque, che ondeggia nel Golfo del Messico, non riguarda più soltanto le coste della Louisiana, dell'Alabama, della Florida, i pescatori locali affranti da questo inquinamento insopportabile. Da ieri l'assedio si è esteso a Washington, con una partita politica che si va facendo, direi, sempre più complessa per l'amministrazione Obama, che resta sotto accusa per latitanza. Per questo le reazioni del presidente, che cerca di reagire con presenzialismo alle accuse dell'opposizione. Ma l'assedio si è esteso alla borsa. Il titolo BP ha perso ieri fino al 16% per il fallimento dell'operazione Top Kill, per le incertezze sull'efficacia del nuovo tentativo, quello della cupola, e soprattutto perché le notizie di cui vi parlavo prima, in arrivo da Washington, di questa possibile denuncia criminale per l'operato della società, non aiutano. Se l'inchiesta avviata da Obama proverà che la legge è davvero stata violata, beh, per la BP non potrà esserci rivalsa alcuna con le compagnie di assicurazione Lloyd in testa. Il costo a quel punto potrebbe superare, secondo stime, i 10 miliardi di dollari, addirittura 20 miliardi di dollari. Insomma, stiamo parlando di un colpo potenzialmente mortale per questa grande azienda petrolifera. Intanto, soltanto ieri, la capitalizzazione di BP è caduta di oltre 17 miliardi di dollari. It's a bad start. The worst in presidential history, no. E veniamo alla parte politica. Avete sentito la voce di Peggy Noonan, il presidente sente chiaramente sul collo il fiato degli attacchi. Peggy Noonan, ricordiamolo, fu una delle grandi speechwriter del presidente Reagan, resta un punto di riferimento per il Partito Repubblicano, e dunque proprio Obama, che aveva criticato senza tregua l'operato di George W. Bush per l'uragano Katrina, dimostra, secondo l'opposizione, di non essere in grado di prendere saldamente in mano le redini di questa crisi ambientale, sociale e economica. Peggio, dice la Nuna, di non essere in sintonia con gli americani. Ecco, questa autrice di Reagan, ispiratrice del grande presidente americano, dice letteralmente che dopo 40 giorni di incertezza, dice, non vedo come Barack Obama potrà sopravvivere politicamente a questa crisi, è cronicamente distaccato dalle preoccupazioni dei suoi cittadini, dei suoi concittadini. Il disastro del Golfo potrebbe benissimo significare la sua fine politica, un male, visto che siamo solo a metà mandato e abbiamo bisogno di leadership. Le accuse a Barack Obama si estendono naturalmente alla sua filosofia. Lui prometteva uno Stato interventista ed efficace, invece per ora, almeno con questa crisi, ha dimostrato che non tutto oro è quel che luccica. Altra notizia che devo dirvi, ieri mi ha lasciato di sasso, vediamo se riconoscete questa voce. Forse l'avrete riconosciuta, è la voce di Al Gore, 62 anni, giovanilissimo e improvvisamente ricchissimo politico, ex vicepresidente, grazie ai suoi oculati investimenti nell'economia ambientale, premio Nobel, grande autore di un documentario che ha vinto il premio Oscar. Ebbene, ci ha lasciato di sasso, ha annunciato ieri che si separava dalla moglie, anzi che si è separato dalla moglie Tipper Gore. Devo dire, anche a me ha colpito molto, perché i due erano il simbolo stesso della coppia unita, della famiglia perfetta, con le figlie Karina, Christine, Sara, col figlio Albert III, Alberto il Terzo. E proprio Karina, la figlia, lavorò ai massimi livelli della campagna elettorale del 2000, quando Gore, lo ricorderete, cercò la presidenza degli Stati Uniti. Ci fu poi la confusione della Florida e Karina triangolava con la madre proprio l'immagine di un nucleo familiare perfetto e intellettuale rispetto a quello di George W. Bush, le cui figlie erano un po' più, diciamo così, superficialone. Ecco, questa avventura romantica di Al e Tipper ha avuto un suo contrappunto sulle copertine di tutti i settimanali americani. Mano nella mano, bionda, paffuta, sexy, lei, the all American boy, alto, castano, atletico, lui, discendente da una famiglia di grandi politici. La sorpresa però, secondo me, è tanto più grande perché l'altra coppia che sembrava a rischio, Bill e Hillary Clinton, resta solidissima, nonostante, dicono i ben informati, le continue avventure di Bill. Ma evidentemente in matrimonio le scappatelle non sono tutto. Bill e Hillary hanno un rapporto fortissimo sul piano intellettuale e su quello dell'alleanza politica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porta sulla costa americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, oggi vorrei dedicarla alla cantante M.I.A. La canzone del giorno è I Am a Singer. Beh, perché? Perché questa cantante britannica, trovo simpaticissima, di origine cingalesi, si è vendicata contro un'intervista cattiva scritta da Lynn Hirschenberg sul New York Times. Si è vendicata come? Scrivendo proprio una canzone contro questa giornalista. Mi sembra che questa iniziativa sia fantastica. E dunque, ecco a voi I Am a Singer. Army from the west have started sending mics, and I'm sat in America doing tricks. So the army's looking at me like I'm a bitch, and I'm thinking about the babies lying in the ditch. Thinking if they had a kite phone, you'd see the shit. And what you see in my space just a little bit, and the story's always fucked by the time it hits. Why the hell would journalists be thick as shit? 'Cause lies equals power equals politics. I'm a sinner. Da Los Angeles è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.